Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Niente, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, non se ne fa più niente. Ieri c'è stata la proposta, ma alcuni non erano d'accordo e quindi si è fermato tutto. No, non pensate, non è la proposta di Renzi, l'Italicum. Sì, anche lì, insomma, quella è passata in realtà, per il PD è passata, anche se è costata le dimissioni, l'avete sentito oggi, di Gianni Cuperlo, del presidente del Partito Democratico. Quello che invece non si fa più è la trattativa tra Inter e Juventus riguardante lo scambio Guarin-Vucinic. Avete presente ieri tutta questa diatriba, questa telenovela, questo psicodramma, diciamolo anche pure, ecco, che si consumava insieme alla presentazione della riforma elettorale, della proposta di riforma elettorale di Renzi? Beh, quella non è andata in porto, invece quest'altra. Vediamo un po' come procede tra insomma dissidi, tensioni all'interno del PD e anche con dei dubbi e dei bisogni di rassicurazioni e di emendamenti eccetera da parte degli altri partiti. Capiremo attraverso la ricostruzione della giornata e anche poi con gli ospiti, come sempre, dopo la prima parte, dopo il primo quarto d'ora. Intanto c'è chi brinda, chi festeggia. Pensate, l'assessore provinciale di Milano, Cassago, si chiama Roberto Cassago, del Nuovo Centrodestra, 71 anni, con un tappo di spumante, volendo festeggiare, ha bucato un quadro, una tela del 1700 e per fortuna dice almeno intendo pagare io i danni. Insomma, bei danni, per ora li hanno riparati con lo scotch, ma immaginiamo che poi ci sarà un restauro migliore. Bene, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, c'è sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, se volete scrivere i vostri commenti. Ne vedo già molti al tema di oggi, di Cuperlo che si è dimesso e dice io mi dimetto perché sono colpito e allarmato da una concezione del partito e del confronto al suo interno che non può piegare verso l'omologazione di linguaggio e di pensiero. Che ne pensate di queste dichiarazioni di Cuperlo e delle sue dimissioni? Avremo poi tempo di discutere, intanto partiamo dalle notizie principali della giornata. Quindi naturalmente, come vi dicevo, le tensioni nel PD, il presidente Cuperlo si è dimesso, ho ricevuto attacchi personali, dice, ma Renzi tira dritto e domani l'Italicum, cioè la riforma elettorale, arriva in commissione. Occupazione, l'Unione Europea lancia l'allarme, l'Italia è il paese peggiore per chi perde il lavoro. E poi le armi chimiche dalla Siria, il governatore della Calabria Scopeliti dice abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni da Letta su Gioia Tauro, ma i sindaci restano contrari all'arrivo delle navi. Testa sugli animali, l'Unione Europea denuncia l'Italia che rischia una multa di 150.000 euro al giorno. Calcio, Tuir blocca lo scambio Guarin-Vucinic, non si fa più, Coppa Italia è la notte questa di Roma-Juventus. Partiamo quindi anche questa sera dalla politica, dalle tensioni che agitano, diciamo, soprattutto il Partito Democratico in seguito alla direzione di ieri e al sì all'Italicum di Renzi. Scambio di lettere c'è stato oggi tra Renzi e Cuperlo che appunto lascia la presidenza. Caro Matteo, mi dimetto per poter dire quello che penso. Caro Gianni, rispetto alla tua scelta, ma bisogna saper accettare le critiche. Questo in sintesi lo scambio epistolare tra l'ormai ex presidente del PD e il segretario del partito dopo lo scontro in direzione sul progetto di legge elettorale. Cuperlo scrive una lettera aperta su Facebook in cui manifesta allarme per la concezione che il segretario ha del partito. Renzi risponde che rimettere in discussione i punti dell'accordo senza il consenso degli altri rischia di far precipitare tutto. La sostanza comunque è che la presidenza Cuperlo, vista come elemento di garanzia e tentativo di mediazione tra le due componenti del PD, ha resistito soltanto poche settimane. La conseguenza invece è che le manovre legate alle riforme rischiano di complicarsi. Infatti Renzi ha sì vinto la prima tappa del percorso verso la nuova legge elettorale, facendo leva sui 3 milioni di voti ottenuti nelle primarie. Ma in Parlamento la minoranza del PD in realtà rappresenta la gran parte dei deputati e dei senatori democratici. Un aspetto, questo, che Renzi non può sottovalutare. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, a parte la buona notizia delle dimissioni di Bersani dall'ospedale, ci sono state invece le dimissioni, dicevo, di Cuperlo dal partito. Quindi giornata movimentata anche oggi, vero Vincenzo Miglietta, in diretta da Roma? Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao, giornata movimentata, Roberta, quindi lo hai illustrato, hai ricordato la frizione all'interno del PD, ma questa sera Renzi, oltre alla controlettera che abbiamo ascoltato nel servizio del collega Panceri, ha parlato a porta Renzi ed è stato molto categorico. Renzi ha detto: sono dispiaciuto per le dimissioni di Cuperlo, ma nel PD si fa quello che ha deciso la direzione e non altro. Questo è un messaggio alla sua minoranza, alla minoranza del PD, ma non a detta mia, ma a detta di tanti altri osservatori della politica. È un messaggio anche agli altri partiti, soprattutto a quelli più piccoli dell'attuale maggioranza di governo, perché riflettano bene prima di dire no al modello elettorale proposto. E come ricordavi, Roberta, domani il testo sarà già in Commissione Affari Costituzionali della Camera, e vedremo poi quindi come potrà uscire questo provvedimento dal Parlamento. Il nodo cruciale è quello delle preferenze. Stasera Renzi ha ricordato che lui è sempre stato favorevole alle preferenze, ma su questo punto c'è stato il veto di Berlusconi, così come Berlusconi è dovuto capitolare invece sul capitolo del ballottaggio voluto fortemente da Renzi. Se ci fosse stato il ballottaggio 9 mesi fa, ha ricordato Renzi, non ci troveremmo ora con il governo di larghe intese. Sì, Vincenzo, e poi vedevo che a proposito dei partitini, dice: partitini arrabbiati, pazienza, e dice ancora Renzi: se non vado bene chiamate Goldrake. Quindi qualcuno che fosse appassionato del personaggio può sempre riferirsi a lui. Grazie Vincenzo Miglietta. Ciao Vincenzo. Grazie. E insomma, PD a caccia quindi di compattezza, intanto il presidente del Consiglio Letta si tiene rigorosamente fuori. Oggi si è saputo che incontrerà il 27 marzo prossimo Barack Obama, che sarà in visita a Roma per la prima volta, vedrà Papa Francesco e con lui, cioè vedrà per la prima volta Papa Francesco, e con lui hanno fatto sapere dalla Casa Bianca Obama con Letta discuterà di lotta alla povertà. È notizia giunta proprio oggi in concomitanza con uno studio europeo sull'occupazione che traccia un quadro pesante per l'Italia proprio in termini di povertà. In Italia non cresce solo la disoccupazione, ma anche la povertà. È quanto ha dichiarato il commissario europeo al lavoro, Laszlo Andor, presentando il rapporto UE 2013 su occupazione e sviluppi sociali. Nel nostro paese, infatti, ad avere problemi economici non è solo chi ha perso il lavoro, ma anche chi un impiego ce l'ha. Dallo studio europeo risulta che l'Italia è il paese che ha conosciuto dal 2008 il declino più elevato della situazione sociale di chi lavora, con oltre il 12% degli occupati che non riesce a vivere del suo stipendio. Sotto di noi, nella classifica, solo Romania e Grecia. Nessuno invece fa peggio di noi in Europa quanto a probabilità di trovare un lavoro dopo averlo perso. Nel nostro paese le possibilità di ottenere un altro impiego entro un anno sono tra il 14 e il 15%, le più basse di tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea. La presentazione del rapporto nel giorno in cui l'OCSE segna la prima crescita del tasso di occupazione nell'area euro dalla metà del 2011. Anche qui purtroppo l'Italia è in controtendenza, con la percentuale di occupati che insiste a scendere dal 55,6% del secondo trimestre 2012 al 55,4% del terzo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con Il Sole 24 Ore di domani vi segnalo che c'è un focus sugli incentivi per assumere. Intanto arriva la proposta del ministro del Lavoro, Giovannini, per risolvere il problema degli esodati. Il ministro sta studiando un prestito pensionistico garantito da aziende Stato. Sentiamolo. Stiamo lavorando sugli aspetti tecnici di questo procedimento, che è un procedimento complesso e che può vedere il contributo anche da parte delle aziende. In questo senso è appunto complesso sul piano tecnico. Stiamo lavorando anche col Ministero dell'Economia e delle Finanze per fare una proposta che abbia tutte le caratteristiche di robustezza, non solo finanziaria ma anche giuridica, per poi presentarlo alle parti sociali. Sul fronte fiscale intanto niente tagli per le detrazioni, si procederà invece con la spending review, così è stato comunicato. Intanto il prodotto interno lordo dell'Italia, il PIL, crescerà quest'anno dello 0,6% per poi accelerare a più 1,1% nel 2015. Questa è la previsione del Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto leggermente a ribasso, meno 0,1 la stima per il 2014 e al rialzo più 0,1 quella invece per il prossimo anno. Armi chimiche dalla Siria. Oggi c'è stato un incontro a Roma, come annunciato ieri, con effetto notte, proprio il sindaco di Gioia Tauro, Bellofiore, che poi raggiungeremo tra poco per sapere insomma com'è andato questo incontro, che conclusioni sono arrivate. Esito intanto incerto per la conferenza Ginevra 2 sulla Siria. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha ritirato l'invito all'Iran per la riunione di Montreux, che si aprirà domani, perché gli Stati Uniti siano piuttosto contrariati. Questo mentre torna la paura a Beirut, in Libano, dove almeno 4 persone sono rimaste uccise e 27 ferite nell'esplosione di autobomba. Con l'aiuto di Dio abbiamo risposto ai massacri compiuti dal partito dell'Iran contro i bambini siriani di Arsal, con un'operazione suicida che ha preso di mira il cuore dei suoi quartieri meridionali. Così quanto si legge nel comunicato diffuso su Twitter dall'organizzazione Fronte al Nusra in Libano, gruppo di Al-Qaeda operativo in Siria. Il comunicato prosegue dicendo: invitiamo la comunità sunnita presente in tutte le zone del Libano a serrare i ranghi per combattere il partito del diavolo. Così dunque i mandanti dell'attentato kamikaze che ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 27 con l'esplosione di un'autobomba nella roccaforte di Hezbollah. L'attacco di oggi è il sesto messo a segno in 6 mesi contro il movimento sciita libanese, impegnato al fianco del regime di Damasco nella guerra civile in corso in Siria dal marzo del 2011. Enza Loddo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso invece occupiamoci di immigrazione, perché il Senato abroga il reato di clandestinità che viene sostanzialmente trasformato in illecito amministrativo. Chi per la prima volta quindi entra clandestinamente nel nostro paese non verrà più sottoposto a procedimento penale. L'ampia maggioranza espressa al Senato è indice di civiltà e rispetto delle diversità, così ha detto la ministra Cécile Kyenge commentando la decisione del Senato. Dice: un ulteriore passo in avanti che ci avvicina all'Europa. Passiamo alla cronaca. Luigi Preiti, l'uomo, vi ricordate, che sparò davanti a Palazzo Chigi il 28 aprile scorso mentre giurava il governo Letta, ferendo gravemente il brigadiere dell'arma Giuseppe Giangrande, è stato condannato a 16 anni. Chiedo scusa, aveva detto in una dichiarazione spontanea in aula prima della sentenza. E c'è un nuovo arresto, nuove accuse per Monsignor Scarano, ex contabile dell'APSA, cioè dell'amministrazione patrimonio sede apostolica. Concorso in riciclaggio e falso sono le nuove accuse a carico di Monsignor Nunzio Scarano, raggiunto da un nuovo provvedimento agli arresti domiciliari. Gli investigatori avrebbero accertato finte donazioni a favore dei poveri per milioni di euro. Il tenente colonnello Antonio Mancazzo. Sostanzialmente arrivavano queste somme sui conti dello IOR e poi attraverso tutta una serie di operazioni di schermatura queste somme venivano prelevate e appunto investite in territorio nazionale, possiamo dire in territorio salernitano, sia per l'acquisizione di mobili che per la costituzione di società. Nell'ordinanza notificata a Scarano si dispone anche il sequestro dei conti correnti a lui riferibili e giacenti presso lo IOR. Agli arresti domiciliari è finito anche il sacerdote Luigi Noli, mentre per il notaio Bruno Frauenfelder è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare l'attività. Scarano era già finito in carcere nel giugno scorso per corruzione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo adesso al decreto legge sulle carceri. È stata ridotta la pena per lo spaccio di cannabis, reclusione al massimo per 3 anni contro i 5 attuali e multa più light, cioè più leggera, per il piccolo spaccio da strada della cannabis. Lo prevede un emendamento del relatore Davide Ermini del PD al decreto legge carceri, ora in commissione giustizia della Camera, che modifica così la Fini Giovanardi sulle droghe e introduce una distinzione quindi tra droghe leggere e droghe pesanti. E intanto c'è l'allarme della ministra della giustizia Cancellieri sui ritardi nei processi. La data del 30 giugno 2013 si contano 5.257.693 processi pendenti in campo civile e quasi 3 milioni e mezzo in quello penale. Il sistema continua a essere in sofferenza, nonostante la risposta offerta dalla magistratura italiana, che l'ultimo rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia colloca ai primi posti in termini di produttività. Notizia di oggi è anche questa che riguarda il test sugli animali. L'Unione Europea denuncia l'Italia con un rischio di multa da 150.000 euro al giorno perché il Parlamento italiano non ha recepito la direttiva sul benessere delle cavie da laboratorio. E per chiudere, il calcio con non solo la Coppa Italia ma anche questa trattativa ormai fallita. Guarin Vucinic, vero Dario Ricci? Roberta, sì, sorrido a sentirti esperta anche di calcio mercato, ma questo scambio ha imposto a tutti una grande attenzione, scambio che poi è saltato per il no del presidente dell'Inter, l'indonesiano Tohir. Di fatto è stato un problema di soldi perché l'Inter chiedeva un conguaglio di circa 3 milioni di euro a compensare apprezzare, diciamo, il fatto che Guarin è anche più giovane di Vucinic, di 3 anni, la Juventus... Ah, ne fanno anche una questione di 3 anni? Sì, perché comunque vuol dire che ha in prospettiva qualche anno in più di carriera davanti, no? Rispetto a un giocatore più anziano. La Juventus da questo punto di vista non voleva sborsare soldi, quindi è accordo che è saltato, ma tifo nell'azzurro che rimane in fibrillazione, visto che c'è stata una manifestazione comunque di protesta contro i vertici della società sotto la sede del club qui a Milano. La Juventus ha definito ufficialmente il comportamento dell'Inter come sconcertante e poi è scesa in campo ed è in campo attualmente all'Olimpico di Roma per questa attesissima sfida di Coppa Italia che vale un posto in semifinale con la Roma. Siamo al 30° di gioco, risultato ancora 0-0 e si sono visti più ammonizioni in una partita comunque sostanzialmente corretta che occasioni da gol finora. Grazie, poi vedremo se ci sono delle occasioni, più tardi con Dario Ricci ci aggiorniamo. Intanto vi ricordo che tra poco entreremo nel vivo di alcuni argomenti, in particolare naturalmente della politica, della legge elettorale, di quello che sta succedendo nel PD e non solo. Se avete delle opinioni da esprimere in merito c'è la pagina Facebook Effetto Notte - Roberta Giordano, oppure il numero per i messaggi SMS al 349 238 6666, e quello su cui potete, se volete, insomma, esprimere i vostri pareri, le vostre opinioni è sulle dimissioni di Cupero, su quello che ha scritto nella sua lettera, insomma, che dice: io non posso sopportare una visione del partito in questo modo, voglio la libertà di criticare, di applaudire, di dissentire e mi dimetto per il bene del PD. Cosa ne pensate? Intanto pensateci mentre aggiorniamo chi piace. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, quindi le notizie, se mai voi aveste acceso la radio in questo momento ricordatevi di accendere almeno alle 21, vi ricordo quali sono i fatti principali. Naturalmente la legge elettorale con l'Italicum, la proposta di riforma di legge di Renzi che spacca il PD, Cuperlo si dimette da presidente, Renzi dice volevo le preferenze ma Forza Italia non ha voluto e dice i partitini si arrangino. Occupazione, l'allarme dell'Unione Europea, l'Italia è il paese peggiore per chi perde il lavoro. E poi le armi chimiche della Siria, il governatore della Calabria Scopelliti dice abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni da Letta su Gioia Tauro, ma i sindaci restano contrari all'arrivo delle navi. Teste sugli animali, l'Unione Europea denuncia l'Italia che rischia una multa di 150.000 euro al giorno e per il calcio Tohir blocca lo scambio Guarin-Vucinic, non si fa più, dice Coppa Italia, e la notte di Roma-Juventus che per il momento viaggiano sulla parità 0-0. Adesso invece occupiamoci appunto del tema principale di oggi, che lo è oggi, lo era anche ieri, quello della riforma della legge elettorale, la proposta di Renzi, l'Italicum, quello che sta succedendo all'interno del PD. Oggi è stata una giornata, dicevamo, molto turbolenta, molto movimentata. Pensate che si è dimesso il presidente del Partito Democratico Cuperlo perché dice ci sono stati degli attacchi personali nei miei confronti. Parliamo anche della legge elettorale, dell'Italicum, che man mano comincia un po' a delinearsi, e ne vorrei parlare con Ugo De Siervo, che saluto, buonasera. Buonasera. Presidente emerito della Corte Costituzionale, e c'è Rosa Maria Di Giorgi, senatrice del PD. Buonasera, onorevole. Buonasera. E, abbiamo anche Crozza, però non nostro ospite, ma è a Ballarò. Sentiamo su cosa apre. Ciao Giovanni, volevo dirti che io stasera il pezzo non lo faccio. Ah, non lo fa. Vediamo perché. Non lo faccio. Non lo voglio fare, volevo solo dirti questo aperto così, per dirti io questa sera il pezzo non lo faccio e poi me ne vado. Ma perché? No, perché si è dimesso Cuperlo. Siamo in tema. E allora ci sono dei momenti in cui un comico deve sapersi fermare. No, ma non è questo, no. Si è dimesso Cuperlo. Che cazzo se ne frega. Però Rosa Maria Di Giorgi, lei la pensa così? No, assolutamente. Che lei aveva chiesto le dimissioni ieri di Cuperlo e oggi dalla segreteria del PD hanno detto beh, è una posizione personale della nostra collega deputata Di Giorgi, però insomma, la stimiamo ma non è la nostra posizione. Sì, diciamo che esattamente era una posizione personale, un questo comunicato ieri Di Giorgi la sentiamo e non la sentiamo praticamente. Come mai? Non mi sente? No, la sentiamo male. Stia... Mi sento molto bene. Sì. Mi va bene? No, no, dovrebbe provare. Allora, proviamo semmai a richiamarla. Mi scusi, perché proprio si sente malissimo. Se no, gli ascoltatori non sentono nulla. Risentiamo un attimo Crozza. Ma Cooper, ma se ci hai fatto un governo con Berlusconi? Giova, scusami, aiutami a capire, perché io sono un cretino, faccio fatica, io non capisco. E poi sono ancora un po' scosso dalle dimissioni di Cooperlo, per cui... Ugo De Siervo, adesso certamente Renzi, cioè, ha abbastanza ragione quando dice avete fatto il governo con Berlusconi, e quindi insomma c'è poco da dire, se io lo riconosco come leader del centrodestra e sono più o meno costretto a mediare con lui, a trovare un accordo, anche se forse... possibile che queste cose magari accadano soltanto in Italia, ma al di là di questo, sull'accordo trovato e sulle caratteristiche di questa legge, di questa proposta di legge elettorale, lei che posizione ha? La posizione è l'apprezzamento che infine si cerchi di sbloccare la situazione, e quindi di per sé figurarsi molto bene se il nostro sistema incomincia a decidere qualcosa, perché i sistemi muoiono anche per inconcludenza, no? Nel merito, beh, c'è qualche rilievo, ma insomma, voglio dire, come tutte le innovazioni importanti ha le sue luci e le sue ombre, ecco. Per esempio, le ombre potrebbero essere questa questione sia del premio di maggioranza, ma soprattutto delle preferenze, perché anche ieri molti ascoltatori e ascoltatrici, per esempio, scrivevano dubbiosi, un po' arrabbiati su questa mancanza delle preferenze, di nuovo i listini bloccati, anche se molto più brevi, perché poi Renzi oggi ha detto in realtà io le volevo, però Forza Italia proprio non ha messo un veto su questo. Lei che ne pensa? Ma io penso che sia abbastanza incomprensibile perché mai vogliano vietare di esprimere una preferenza, evidentemente in un listino di 4-5 posti. Cioè, voglio dire, siamo chiari, in un collegio di 4-5 candidati ogni partito può aspirare a farne passare due. No, insomma, ora, dopo aver scelto i 5 candidati, allora che problema ha se gli passa al terzo o al quarto invece del primo o del secondo? E però con ciò stesso, attraverso le preferenze, si dà agli elettori del suo partito una maggiore libertà, diciamo, una maggiore forma di partecipazione politica. Quindi neanche lei comprende perché c'è stato questo veto sulle preferenze. Sinceramente non lo comprendo, l'avrei compreso e forse condiviso se si fosse trattato se si trattasse di liste lunghe, 20, 30 candidati, 100 candidati, ecco, perché allora in questa situazione si potrebbero formare delle cordate mosse da movimenti sociali, da gruppi di pressione, da finanziatori occulti che vogliono stravolgere la realtà politica, ma invece in piccoli collegi in cui più o meno ci si conosce o ci si può conoscere tutti, perché mai togliere all'elettore di un partito il potere di dire vabbè, tra quei 5 che hanno messo in lista io preferisco Pinco piuttosto che Pallino. Sentiamo allora Renzi, Ugo De Siervo e anche Rosa Maria Di Giorgi, che abbiamo ripreso con una linea migliore. Sentiamo cosa ha detto fra le varie cose in Porta a Porta che ha registrato oggi. Ci ho messo un mese a portare tutto l'arco costituzionale a una riforma straordinaria e storica. Non è che se dentro il PD ci sono, come dire, dei mal di pancia, dai. I mal di pancia sono comprensibili e i miglioramenti sono comprensibili. Se uno è più bravo di me e trova un accordo migliore, che bello, io sono felice. Ma non è che ci si blocca per le dinamiche interne di corrente, eh? Berlusconi non voleva le preferenze, Forza Italia. Alfano che cosa ha chiesto? Ha chiesto non facciamo la ripartizione circoscrizionale ma quella nazionale. Sulle regole non è che si gioca al gioco che decido io come decido io. Io avrei preferito avere le preferenze. Ha sentito Rosa Maria Di Giorgi, tra l'altro sì. Dice ho portato una riforma straordinaria e storica, ha una certa stima di sé, possiamo dirlo, Renzi, su questo non ci però quello sicuramente in politica avere stima di sé funziona, è molto importante, sì. Direi che comunque siamo davvero in presenza, se naturalmente le cose andranno come si presuppone che possano andare, siamo in presenza di un momento storico, stiamo cercando di cambiare la legge elettorale, di abolire quindi il porcellum, stiamo cercando di fare delle riforme istituzionali che ormai erano necessarie e che ci collocheranno a livello europeo in una posizione sicuramente più adeguata. Stiamo riguardando, e lo faremo molto rapidamente, il titolo quinto, in particolare il famoso titolo quinto per gli ascoltatori, il rapporto con le regioni, le competenze delle regioni rispetto allo Stato. Le competenze delle regioni, e quindi anche lì cercheremo di risistemare tutto ciò che in questo momento non funziona, perché ci sono delle competenze che si sovrappongono fra Stato e Regioni e quindi non c'è velocità di intervento, non c'è velocità di decisione e c'è moltissimo contenzioso. I nostri tribunali sono pieni di contenzioso tra Stato e Regioni, a chi tocca fare che cosa, e quindi questo è un altro aspetto importante. Si elimina il bicameralismo cosiddetto perfetto, ossia si cambia il modo di essere del Senato. Io sono un senatore, quindi stiamo lavorando noi a questa legge, una legge che quindi trasforma anch'essa la Costituzione, quindi è una legge costituzionale. Il Senato sarà un'altra cosa, sarà sempre una Camera alta, ma sarà con la rappresentanza dei presidenti di regione, dei sindaci delle grandi città, quindi un Senato che non sarà più eletto direttamente, non ci saranno più i senatori eletti direttamente dai cittadini, non ci sarà più la fiducia, il Senato non darà più la fiducia al governo, la fiducia verrà data soltanto dalla Camera, che manterrà il numero di deputati, ma naturalmente sì, con un risparmio rispetto alle indennità che invece attualmente spettano ai senatori, che è certamente notevole, ma non è una questione di risparmio, naturalmente è una questione di efficienza. Noi in questo momento facciamo esattamente lo stesso lavoro tra Camera e Senato, il famoso bicameralismo perfetto. Volevo le leggi vanno di qua e di là. E quindi tutto questo è storico, evidentemente, quindi ha ragione Renzi quando dice che un accordo tra partiti in questo momento è un accordo storico. Che ancora, una mediazione. Ancora ci si deve arrivare. Leggo alcuni messaggi delle ascoltatrici e ascoltatori tra la pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi. Che bello, per 20 anni ti dicono che le preferenze portano a comprare i voti, poi per 20 anni ti dicono che senza preferenze non c'è democrazia. Che ne pensa Ugo De Siervo? Anche qui bisogna essere laici, cioè bisogna essere coi piedi un po' per terra. È evidente che le preferenze possono essere un fenomeno anche di degenerazione, ma se te lo permette la legislazione. Se invece si svolgono entro piccoli collegi, danno un potere di più al singolo elettore. E questo non lo si può sottovalutare. Il fatto stesso che i partiti, il PD in particolare, negli ultimi anni usi o cerchi di usare le primarie, che vuol dire? Vuol dire che si sono resi conto che i loro simpatizzanti non si accontentano più di essere chiamati ogni tanto a votare, ma vogliono una partecipazione più piena. Ecco, questo è dentro un partito. E forse anche una moderata utilizzazione del diritto di esprimere preferenze, è nella stessa direzione, si dà qualche strumento in più al cittadino di esprimere la propria volontà politica senza essere obbligato a dare un consenso a scatola chiusa. De Siervo, vedevo tra l'altro che siccome la soglia di sbarramento per i partiti, cioè che non arrivano a quella percentuale di voti, se ne devono stare a casa, che è il 5%, no, secondo questa proposta, leggevo però che Renzi ha detto c'è sempre stato, ci sarà quindi anche in questa proposta, un criterio di salvaguardia per le autonomie. Se c'è un partito, dice, politico, che ha in 3-4 regioni, io immagino la Lega per esempio, una percentuale molto forte, rischia di non essere in Parlamento se non raggiunge il 5%, però se è forte in queste regioni ci sarà un sistema di salvaguardia. È corretta questa cosa, nel senso, sì, che significa? Ma allora a che serve la soglia di sbarramento? Per ora si sono approvate delle bozze, diciamo, ma delle bozze molto generali. Le leggi, soprattutto le leggi elettorali, sono leggi complicate, in cui ci vogliono tanti particolari, tante norme speciali. Pensi anche solo al problema di riuscire a rappresentare le minoranze linguistiche, non so, diciamo i tedeschi, coloro che parlano la lingua tedesca in Alto Adige, oppure i valdostani. Evidente che sono quantitativamente molto piccoli e quindi ci vorranno delle norme speciali che fondamentalmente dicono: là dove c'è un gruppo etnico o un gruppo linguistico particolare si deroga. In realtà la direzione del PD ieri ha approvato l'ipotesi di fare due riforme costituzionali, una legge elettorale con una paginetta e mezzo di cose scritte, cioè è un impegno molto iniziale. È una bozza, e questo lo è dico. È una bozza molto iniziale, e per dire la riforma del Senato, che è una cosa seria, è condensata in cinque righe. Invece è una cosa complessa, cinque righe. Certo. Quindi questi sono i buoni propositi, diciamo, Gude Serve. Lo spiego anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori che spesso chiedono spiegateci meglio in cosa consiste questa riforma della legge elettorale, però come ricordava anche lei, appunto, ancora in bozza, ancora in fieri, aspettiamo i prossimi dettagli. Sia da Maria Rosa Di Giorgi prossimamente, che ringrazio, e buon lavoro. Grazie, grazie onorevole. A voi. E grazie a lei, Ugo De Siervo. Grazie a lei. Grazie, buona continuazione. E a proposito di continuazione, leggo brevemente, prima di proseguire, alcuni vostri messaggi. Rosanna che dice: starei a sentire la risposta che darà Renzi a Cooperlo, che in effetti ha già dato, dice: mi dispiace, ma comprendo, però potremmo proseguire bene insieme. Dice: cercherò di sapere il più possibile, dice Rosanna, su come stanno realmente le cose, perché non si possono esprimere giudizi così al momento. Poi Riccardo: qualcuno ha confuso il vento di cambiamento con il vento di riscossa del popolo ed è molto forte, in quanto con le porte aperte già due sono volati via. Polemiche sterili, dice che lacerano il partito. Giuseppe, che gli piace vincere facile e che non saprebbe nemmeno perdere, credo che si riferisca a Cooperlo, e che a causa dei propri mali non rompa prendendoci per fessi completi. Floriano: Cooperlo, persona seria, ma di vecchio stampo, la politica corre più forte dei rappresentanti. Poi altri messaggi, adesso ci dobbiamo fermare, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano, stavo guardando anche i vostri messaggi sulla pagina di Effetto Note, pagina Facebook, con Fabrizio che dice: la nomenclatura, a proposito delle tensioni del PD, delle dimissioni di Cooperlo, la nomenclatura si difende con le unghie e con i denti dal cambiamento, del resto anche il comico in politica è un bel tumore per la democrazia. Mario: se avesse vinto le primarie Cooperlo, come si sarebbe comportato con Renzi? Secondo me nello stesso modo, quindi parliamo di aria fritta e di schermaglie fisiologiche. Danilo: in caso di dimissioni non vi è l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS per un dipendente normale, se vai bene c'è la Caritas per Cooperlo, vabbè, rimane la copertina calda di deputato della Repubblica, questo un po' per tutti i parlamentari. Domenico: in democrazia si rispetta e si porta avanti l'esito di una votazione anche se non si condividono i contenuti. E Gianfranco scrive: ma si offendono tutti, mi sembra esagerata la reazione di Cooperlo, la dialettica politica a volte aspra, ma fino a quando si sta sul piano delle idee e non degli attacchi personali il gioco è accettabile. Però Cooperlo ha detto che per lui erano attacchi personali. Ma vi ricordo quali sono state le notizie principali di oggi, che riguardano per l'appunto, come dicevamo, la legge elettorale, l'Italicum che spacca il PD, Cooperlo che si dimette da presidente, Renzi che dice: volevo le preferenze ma Forza Italia ha detto no. L'allarme dell'Unione Europea sull'occupazione: l'Italia è il paese peggiore per chi perde il lavoro. Le armi chimiche dalla Siria: il governatore della Calabria Scopelliti dice: abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni dal governo, ma i sindaci restano contrari all'arrivo delle navi. Calcio: Tohir blocca lo scambio Guarin Vucinic, non si fa più. Intanto in Coppa Italia si gioca la partita Roma-Juventus. E ci siamo occupati, qui a Effetto Notte, mi sono occupata diverse volte da che è iniziata questa vicenda, da che si è saputo che Gioia Tauro in Calabria sarà il porto che riceverà nei prossimi giorni le navi cargo, quella canadese e quella norvegese, che dovranno, proprio nel porto di Gioia Tauro, trasbordare le armi chimiche della Siria sulla nave americana Cape Ray. Questo avverrà in mare. Oggi c'è stato l'incontro tra i sindaci della zona, già da principio era stato ospite qui il sindaco di Gioia Tauro Renato Bellofiore, che è un po' il leader di questo gruppo di sindaci che sono decisamente contrariati da questa iniziativa, anche perché dicono non siamo stati avvisati, non siamo stati coinvolti in questa cosa, è stata un po' calata dall'alto. Oggi c'era l'incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Letta, i ministri Lupi e Orlando e appunto i rappresentanti delle istituzioni calabresi. Avete sentito il Presidente della Regione Scopelitti, ha detto abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni, ma mi sembra che i sindaci ancora non siano molto contenti e soddisfatti delle risposte. Così Renato Bellofiore, bentornato sindaco di Gioia Tauro. Sì. Buonasera a tutti e un saluto ai telespettatori. Sì, effettivamente come diceva lei, io oggi sono stato a questo incontro, ma era tutto un pacchetto già preconfezionato, cioè io speravo che comunque si potesse un attimo ragionare per razionalmente poi decidere se effettivamente quello era il sito Gioia Tauro, il sito migliore in tutta quanta Italia. In realtà non era così, abbiamo avuto quelle rassicurazioni standard che si hanno per qualsiasi tipo di operazione che viene fatta, è chiaro e ci mancherebbe che non fosse così, quindi è tutta una cosa un po' scontata, già preparata. Quello che noi abbiamo contestato è stato quindi, come bene diceva lei, la mancanza di informazione preventiva, il coinvolgimento del territorio, dei sindaci, quindi anche il coinvolgimento istituzionale. Si immagini in qualsiasi altra parte d'Italia, penso che non sarebbe mai successa una cosa del genere, quindi operazioni pericolose di distruzione comunque di sostanze chimiche, sostanze pericolose e senza coinvolgere le istituzioni stesse. È chiaro che è una volontà che ci viene imposta e ci viene calata dall'alto, non siamo d'accordo su questo, ma su ragione obiettive. Io l'ho ribadito più volte, ma lo voglio confermare, voglio ricordare per tutti che già ieri c'è stato un terremoto nello stretto di Messina di 3.2 magnitudo, quindi è una zona sismica, altamente sismica e pericolosa, sarà il porto di Gioia Tauro, sarà oggetto quindi inevitabilmente di possibili attacchi terroristici, questo è innegabile. Poi magari come si dice sempre in queste cose, ma si vuole fare allarmismo, non succederà, però di fatto il rischio questo porto lo corre, e in questo porto lavorano 1200 dipendenti della società MCT più altre 1800 di indotto per tutta quanta la piana di Gioia Tauro. La Calabria è comunque un'economia, la più grande economia che c'è, perché non ci sono aziende in Calabria che hanno questo numero di dipendenti, e quindi se dovesse succedere qualcosa è chiaro che il porto andrebbe, quindi inevitabilmente potrebbe essere chiuso, quindi le ripercussioni sarebbero negative. Ma i vantaggi quali sono di tutta questa operazione? Ma ecco i vantaggi, primo, perché le chiedo come mai il Presidente della Regione Calabria si è detto soddisfatto, oggi dice siamo stati rassicurati, mentre voi sindaci avete questa posizione contraria? Non è una posizione contraria, io ritengo che gli altri hanno una posizione invece preconcetta e già stabilita a priori nei nostri confronti. Io ritengo che queste cose, queste decisioni vanno un po' discusse, come dicevo non penso che in Italia non ci sia un luogo maggiormente idoneo rispetto a Gioia Tauro. Io ho fatto anche l'esempio della struttura sanitaria, cioè qui si è scelto non perché effettivamente dal mio punto di vista Gioia Tauro è veramente il porto di eccellenza, perché non ci prendiamo in giro, in tutti questi anni non hanno mai considerato il governo il porto d'eccellenza, non ha mai investito, cioè noi non abbiamo ancora le strade ferrate al porto, RFI e con il presidente Moretti non ha voluto neanche partecipare all'ultimo bando per la realizzazione del ghetto ferroviario, quindi sono dati concreti che sto ponendo io, dati effettivi, quindi non penso proprio che la scelta sia quella del porto eccellente, piuttosto, e i fatti mi danno ragione, è una scelta di ripiego, perché la Sardegna si è tirata indietro, anzi il presidente della regione Sardegna ha detto che ha salvato il territorio e quindi secondo me si è ripiegati su Gioia Tauro, ma in questo momento con grosse difficoltà che giustamente faranno ricadere su noi sindaci e sul territorio. Bellofiore, però Scopelitti ha anche detto un'altra cosa, il governo ha detto che questa deve essere un'occasione di rilancio economico dell'intera area, lei ha capito in quali termini potrebbe esserci un rilancio economico? Ma guardi, io ho sentito direttamente la voce del presidente, del premier Letta, e devo dire che lui il ragionamento che comunque che porta avanti la presidenza del Consiglio, che anche sotto certi aspetti comunque legittimo e condivisibile, è quello del rilancio del nome di Gioia Tauro, del porto, quindi inteso a livello internazionale come un porto dove in maniera sicura si potrà fare, diciamo, questa operazione. E quindi in questo senso qui c'è, cioè, un messaggio positivo da lanciare, secondo la presenza del Consiglio, da lanciare in ambito internazionale, dove il nome di Gioia Tauro o comunque del porto viene associato all'estero come un porto comunque sicuro. Indubbiamente potrebbe anche sotto certi aspetti questo essere vero, però nulla toglie al fatto che comunque è sempre una scelta che comunque viene imposta e secondo me senza alcuni dati oggettivi. Mi dica una cosa però, Sindaco Bellofiore, voi avete provato a proporre a Letta, al governo, una specie di scambio, spesso queste cose sono fatte di do ut des, cioè a dire se noi siamo un porto di eccellenza e quindi dobbiamo ricevere queste navi che trasborderanno poi le armi chimiche, non possiamo anche avere l'incarico di smantellare, di smontare la nave Concordia, la Costa Concordia del Giglio, che sa che bisogna ancora assegnarlo a qualche porto nazionale o internazionale? Guardi, io la provocazione l'avevo lanciata qualche giorno fa proprio su questo argomento, però le dico una cosa, oggi siamo andati, glielo dico in maniera, mi creda, molto umile, siamo andati comunque con la schiena dritta, non siamo andati col cappello in mano dal presidente Letta, e le spiego perché, perché comunque non era una posizione la nostra di pregiudizio negativo, come ho già avuto modo di chiarirlo, è soltanto che secondo noi non ci sono le basi, quindi la competenza del sindaco qual è? Soltanto quella, io ho una competenza limitata, però nella competenza che mi riserva la legge è quello di tutelare la salute e dovrebbe farlo qualsiasi sindaco nei confronti dei cittadini. No, questo è chiarissimo, mi dica solo un'ultima cosa Renato Bellofiore, tanto ci siamo sentiti varie volte, avremo ancora occasione, che cosa fate adesso voi sindaci della Piana di Gioia Tauro, quindi sinteticamente? Sinteticamente giovedì abbiamo già un incontro tecnico, si pensava già di lanciare comunque la proposta di nei prossimi giorni di in contemporanea tutte e 33 i comuni fare un consiglio comunale dove si va a deliberare un no, quindi di tutti i consigli comunali con una delibera appunto di consiglio. Già sarebbe un segnale forte dove in maniera istituzionale, quindi con una delibera votata da tutti i consiglieri, quindi la rappresentanza proprio totale, maggioranza opposizione di popolazione intere, si ribadisce che quindi non siamo favorevoli. Quindi almeno far sapere che la vostra opinione rimane contraria. Questo dovrebbe avvenire a febbraio, mi pare, dalle ultime notizie, questo trasbordo. Fine voi intanto gennaio, fate sapere ecco, che rimanete su una posizione assolutamente contraria. Poi vedremo che effetto sortirà, insomma, questa vostra tenevo posizione. Tenevo a precisare che non siamo andati a barattare ecco qualcosa, assolutamente no. Penso che se è vero come dovrebbe essere, che a questo punto il governo guarda il porto di Gioia Tauro come un porto d'eccellenza, allora penso che sia naturale che poi il governo stesso a questo punto dia seguito a queste affermazioni e quindi inizi apra un tavolo tecnico, questo almeno si discuteva oggi, aprirà un tavolo tecnico tra Presidenza del Consiglio e il Ministero dei Trasporti per valutare quelle che sono le prospettive di sviluppo, ma non si è parlato di cose specifiche, ecco, di qualcosa di specifico, assolutamente no, però un'attenzione nei confronti di questo porto sicuramente da un tavolo, ecco, dove ragionare potrà uscire fuori. Grazie Renato Bellofiore, grazie, buona continuazione, grazie a voi, prossimi aggiornamenti. Grazie, adesso la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Invece parliamo, occupiamoci dello spazio europeo, visto che il 25 maggio si voterà per le europee, quindi è importante avere informazioni anche in questo senso. Si parla dell'Industrial Compact, ne parliamo con Enrico Brivio. Ciao Enrico. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Finora di Compact avevo in mente il Fiscal Compact, no? E anche il Compact Disc, per dire, però adesso che cosa significa invece quest'altro termine, Industrial Compact? Sì, qui si abbonda di anglicismi, però è un patto per l'industria, patto per la reindustrializzazione europea, che appunto richiama quel famoso fiscal compact per rimettere i conti in ordine. E questa è l'introduzione, europei. Enrico, ma lanciamo l'appuntamento. Europa 24 notte. Verso le europee. Ecco, quindi dicevi, Enrico, stavi spiegando cos'è l'Industrial Compact. Sì, in sostanza è un piano che verrà presentato domani dal Presidente della Commissione Barroso, dal Vice Presidente Tajani, che è responsabile del Commissario all'Industria, e da quello all'Energia Oettinger. L'obiettivo qual è? È di cercare di stimolare il manifatturiero europeo. Tu sai che insomma alcuni anni fa si pensava che tutto l'economia derivasse dai servizi, in realtà si è visto, e gli Stati Uniti lo stanno dimostrando, che l'industria manifatturiera continua a giocare un ruolo importante. Ecco, qui l'Unione Europea cerca di mettere sul piatto 100 miliardi in varie forme per stimolare in particolare 6 settori: acciaio, auto, costruzioni, industria per la sicurezza, cantieristica navale e turismo. E anche con lo scopo, con un occhio insomma di riguardo per le piccole e medie imprese, perché c'è anche l'idea di rivedere questo Small Business Act, che è anche un regolamento europeo, per arrivare a poter aprire un'azienda con solo 100 euro di spesa nel giro di 3 giorni. Questo è l'obiettivo. Però, o al massimo 30 giorni per ottenere una licenza commerciale. Ecco, quindi ci sono anche questi aspetti che sono degli obiettivi, ovviamente, perché poi si confronteranno con i governi nazionali. Però insomma ci sono questi 100 miliardi. Va detto per onestà che, perché per non parlare di miliardi un po' a vanvera, come se fossero noccioline, insomma, che all'interno di questo pacchetto ci sono anche quei 70-80 miliardi di cui si è già parlato per la competitività del progetto Orizzonte 2020, cioè fino al 2020 sono tutti quei progetti per finanziare la ricerca che cercheranno di stimolare le aziende insieme ad enti di ricerca per ridare insomma un po' di fiato e competitività alle aziende europee. Quello che è importante è che ci sia una strategia finalmente europea, cioè che non siano i singoli paesi, sappiamo per esempio che la Germania sta andando molto bene, altri paesi faticano, ma si cerca invece di dare un approccio organico alla politica industriale europea. Bene, chiarissimo, vediamo allora come procederà questo nuovo patto di politica industriale. Grazie Enrico Brivio. Grazie a te, grazie all'ascoltatore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. C'è con Mauro Meazza, che è venuto a trovarmi. Ciao Mauro. Buonasera. Ciao, caporedattore centrale del Sole 24 Ore. Non so se ricorda Goldrick per caso, te lo ricorderai, no? Mauro? Ohimè, sì, non solo me lo ricordo, ma ero già anche grandicello per guardarlo. Cioè, sì, però lo guardavi con un occhio sì e l'altro no, anche. Ma un pochino, diciamo, riuscivo ancora a guardarlo, ma purtroppo non è tra. Io sono per altri eroi televisivi precedenti ai cartoni animati giapponesi. Tu sei ancora Tex Wheeler, forse, non lo so, però non era tanto televisivo. Perché hai sentito Renzi, ha detto: se non vado bene, chiamate Goldrick. Quindi dopo di me c'è solo Goldrick. Il supereroe. Invece, per passare a Giovannini, ministro del lavoro, a me personalmente questa cosa confonde un po' le idee, Mauro, nel senso che ha lanciato oggi una proposta per anticipare l'età pensionabile. Avrò capito male io, perché finora sembra che si andasse in pensione man mano verso i 66, 70, 85, quindi dicevo vabbè, allora tanto vale, qui manco ci penso alla pensione. Che cos'è questa proposta? No, questo rappresenta questo che lui chiama prestito volontario. Ed è una misura diversa. Lo stesso Giovannini ha precisato, ed è molto importante ribadirlo anche a beneficio di chi ci ascolta, ecco: non tocchiamo più le regole sulle pensioni, siccome le abbiamo riviste soltanto nella fine del 2011, è importante che adesso le lasciamo un po' stare, voglio dire, in termini di ritiro e di contributi di età per il ritiro. Non le tocchiamo, ma consentiamo, vorremmo fare una misura, questa è l'intenzione di Giovannini, per cui se un'azienda e un lavoratore trovano un accordo, parte mettendoci il lavoratore, parte ci potrebbe mettere l'INPS, si fa una sorta di anticipo sulla pensione. Io mi ritiro un po' prima dell'età prevista, prendo un anticipo e poi lo restituirò negli anni successivi. Senza rischio di nuovi esodati, voglio immaginare. In realtà hai colto esattamente il punto, cioè il problema è stato quello degli cosiddetti esodati, cioè di coloro che avevano l'aspettativa di ritirarsi in un certo anno, poi è arrivata la riforma fatta dal ministro Fornero con il governo Monti, e questo ha spostato in là il traguardo della pensione molto bruscamente. Li abbiamo chiamati esodati. Allora, per evitare che questa cosa si trascini lungamente e offrire una strada alternativa, perché noi continuiamo poi di legge in legge a mettere dei fondi per venire in soccorso di queste persone, bene, si trova a dare questa via alternativa che, vorrei precisare, non c'è ancora. È un'idea, il ministro l'ha lanciata per primo sulle colonne del Sole 24 Ore, l'ha rilanciata qualche settimana fa, l'ha rilanciata ancora oggi, quindi evidentemente sta cercando di capire quanto consenso si può creare. La sostanza è: me ne vado prima, mi prendo un anticipo su quella che sarà la mia pensione. Quando arriverò al momento della pensione prenderò un po' meno, cioè è come se restituissi parte del trattamento che mi è stato anticipato. Che mi viene anticipato. Tu la vedi come una cosa fattibile o al momento, come varie altre proposte, come tutti, possiamo anche dirlo, insomma, questi casotti dell'IMU, della TASI, dello IUC, sarà destinata, dice, sarà difficile leggere nella sfera di cristallo, la vedi più possibile? No, qui mi sembra una cosa più che altro dettata da uno stato di necessità. Noi sappiamo che c'è una, ohimè, espulsione, ma anche notevole, di persone, diciamo dai 50 anni insomma, qualche volta anche meno, dal lavoro, perché le aziende non ce la fanno. Noi domani presentiamo con il Sole 24 Ore 16 pagine per fare la rassegna di tutti gli incentivi per assumere, ne abbiamo contati più di una ventina, però ancora non bastano, producono poche migliaia di posti di lavoro. Allora spesso invece succede il contrario, persone sopra i 50 anni, attorno ai 50 anni perdono il lavoro, vengono espulse, come si dice, anzitempo dal lavoro. Questa potrebbe essere una misura per rendere il tutto meno traumatico. È, ripeto, uno stato di necessità. Sarebbe molto meglio non aver bisogno di misure come queste, ma se questo è lo stato delle cose, può essere un aiuto, un'agevolazione per evitare in qualche modo l'espulsione più dolorosa, che poi appunto crea la categoria dell'esodato, che finora abbiamo potuto aiutare, ma non sappiamo per quanto a lungo saremo in condizione di aiutare. Grazie Mauro Meazza, questa intanto è un'ipotesi interessante, cercheremo di capire che evoluzione avrà. Intanto stiamo per lasciarci, poi per ritrovarci tra pochissimo, vi ricordo le notizie principali. Ci sono ancora molti vostri messaggi che adesso quindi dovrò leggere per conto mio sulla pagina Facebook di Effetto Note. Voi però non indugiate in nessun modo a scrivere le vostre opinioni, naturalmente anche a cliccare e ad aderire alla pagina. Tra l'altro Renzi adesso fa sapere un'agenzia superstellata, legge elettorale: Renzi senza riforme la legislatura rischia.